Letture di Radio 24. Michela De Paoli è l'ultima vincitrice in ordine di tempo del milione di euro messo in palio dalla trasmissione televisiva di Gerry Scotti Il Milionario. 43 anni, casalinga di Pavia per necessità. Così riparte alla ricerca di quel lavoro sempre sognato e mai trovato. Forse perché, come osserva la stessa Michela, meglio bella e scema che intelligente senza il fisico. Una casalinga che vince un milione di euro al milionario magari avrebbe fatto notizia in qualsiasi paese. Ma nella nostra Italia oggi a fare notizia dovrebbe essere soprattutto il fatto che quella casalinga, che poi sarei io, non lo è per scelta, ma per necessità. Preferisco dire che sono casalinga solo perché suona meglio che disoccupata, ma la casalinghitudine non fa per me. Sento che potrei dare qualcosa a questa società, ma fino ad oggi non ne ho avuto l'occasione, o non me l'hanno data. Per questo non dovete stupirvi se mentre la prima cosa che salta in mente a chi vince una somma come quella che ho vinto io è di solito «finalmente smetterò di lavorare», io ho un lavoro, mi auguro invece di iniziare a farlo. Ho già detto, e lo ripeto, che mi accontenterei di un posto da receptionist, ma il mio sogno nel cassetto è fare l'organizzatrice di eventi. Si realizzerà mai? Ad essere sincera, non lo so. L'Italia non è un paese per intelligenti, è piuttosto un paese culturalmente allo sbando, dove quasi tutti pensano solo ad apparire, dove l'apparenza conta più dell'intelligenza, come anche recenti vicende, stando almeno a quel che ne scrivono i giornali, sembrerebbero dimostrare. Non so se quella sia l'immagine reale del paese, di sicuro è quella che passa. Dunque, meglio bella e scema che intelligente senza il fisico? Francamente, non me lo sono mai chiesta. Certo, qualche volta mi sono detta, tornassi indietro farei la parrucchiera. Ma in verità, non mi sono mai pentita degli anni che ho dedicato ai libri e allo studio. Oltretutto, non sono mai stata una persona invidiosa. Credo sia stupido esserlo, perché ognuno nella propria vita fa un suo percorso. Di una cosa sono sicura. Di persone come me che potrebbero dare molto, ma non ne hanno l'occasione, in Italia ce ne sono altre. Non so se siano tante o poche, ma ce ne sono. La mia rivincita di oggi, arrivata dopo tante porte sbattute in faccia, sarà un esempio per loro? Una speranza? Chissà. A me, in fondo, basterebbe che quel che mi è successo spingesse tante mamme a dire ai loro figli «Studia, che così un giorno vincerai al milionario». Avete ascoltato la lettera dal titolo «Io, casalinga milionaria grazie alla TV, alla ricerca di un impegno fisso» di Michela De Paoli, pubblicata dal Corriere della Sera del 2 febbraio. Letture di Radio 24. L'Italia è sempre ultima nelle classifiche mondiali dell'internet senza fili. Una corsa alla connettività che vede l'Italia al palo e in procinto di perdere l'ennesimo treno verso lo sviluppo. I governi che si sono succeduti nel tempo non hanno fatto abbastanza e la vocazione televisiva di quello attuale non permette lo sviluppo. Non è un caso, infatti, che una limitazione forte alle frequenze sia dovuta anche al recente passaggio al digitale terrestre. Ma un dato è forse ancora più significativo. Secondo una rivelazione dell'Istat, il 25% della popolazione non sarebbe interessato a internet, tra cui anche molti giovani che ancora non hanno compreso il significato dell'innovazione della rete. Sulla diffusione della banda larga nel mondo, l'Italia è rimasta il fanalino di coda. Ce lo fa tristemente sapere il rapporto sulle reti di nuova generazione di ICOM. Banda larga, le parole chiave per la nuova generazione, presentato ieri alla Camera dei Deputati. Il verdetto era purtroppo prevedibile, alla luce dei dati già diffusi dal rapporto eGov 2010, che certificavano come vedono numerose zone di Umbria, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia fossero ancora senza DSL. Le cause? Probabilmente una domanda per i servizi a banda larga asfittica, si legge nel rapporto ICOM, lo scarso grado di alfabetizzazione informatica, una generica riluttanza nei confronti delle nuove tecnologie da parte di alcune fasce della popolazione e la scarsa propensione delle imprese a investire in dotazioni informatiche. Impossibile poi non notare come la vocazione televisiva del governo nel passaggio al digitale terrestre abbia compromesso le nuove frequenze per la banda larga a vantaggio dei grandi network TV. Eppure, banda larga è sinonimo di crescita e creazione di progetti ad alto tasso occupazionale, come testimonia una ricerca condotta dalla Banca Mondiale nel 2009, per la quale esiste una forte correlazione tra il progresso di un paese e la penetrazione della rete veloce. A fare le spese del ritardo italiano sono soprattutto i giovani, per i quali essere in rete è fondamentale al fine di scovare opportunità, creare gruppi di interesse e di azione volti alla crescita professionale oltre che umana. Intanto sono partite alcune politiche di innovazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico Paolo Romani ha assicurato che entro il prossimo giugno saranno aperti oltre 1000 cantieri al fine di azzerare il divario entro il 2013. Come pure assicura Romani, il tasso di cittadini sotto il digital divide sta scendendo, 8,5% oggi contro 13% a inizio 2009. Per recuperare, Romani pensa ad assegnare alla banda larga molte frequenze oggi in uso dalle TV locali, ma le associazioni del settore, riunite a convegno a Roma, fanno fuoco e fiamme, rifiutano indennizzi che ritengono miserevoli e affermano che il passaggio al digitale terrestre è costato loro fin troppi sacrifici. Una posizione forse in parte corporativa, ma certo anche legittima. Tanto che l'ex ministro delle comunicazioni per il PD, Paolo Gentiloni, propone che siano invece i grandi network nazionali, a loro volta in attesa di nuove frequenze televisive per lanciare l'alta definizione o limitare i buchi nella visibilità regionale, a rinunciare alla crescita per dare spazio alla banda larga. Una proposta che certo non piacerà a Palazzo Chigi. A frenare la rimonta italiana c'è comunque anche un dato non politico, più vicino all'indole degli italiani che ai limiti delle nostre infrastrutture. Il 25% della popolazione non è infatti interessato a internet, dato Istat. E il dato è assolutamente trasversale per età. Tra i non interessati figurano infatti molti giovani. Non sarà anche per questo che coloro che desiderano crescere scelgono paesi vincenti, caratterizzati da politiche e modi di pensare meno ingessati e più all'avanguardia, anche sotto il profilo tecnologico? Avete ascoltato la lettura dell'articolo La banda è larga, ma noi siamo fuori, di Alberto Guarnieri e Alessandra Calise, pubblicato da Il Messaggero del 3 febbraio. Negli ultimi tempi, fenomeni meteorologici estremi stanno cambiando i connotati del nostro pianeta. Ma non sono le nevicate negli Stati Uniti o le inondazioni in Australia che devono preoccupare maggiormente dal punto di vista climatico. Come osserva Luca Mercalli sulla Stampa, i sintomi precedenti le catastrofi sono stati ignorati. Se parlate di riscaldamento globale a New York, sepolta dalle nevi più abbondanti del secolo, è già tanto se vi ridono in faccia, potrebbero colpirvi con una pala. Se lo fate in Australia, facilmente attribuiranno le peggiori inondazioni della storia proprio ai cambiamenti climatici. Sbagliano entrambi. I singoli fenomeni meteorologici estremi rientrano nella variabilità climatica locale e per la loro eccezionalità difficilmente forniscono un'indicazione statistica valida sulla tendenza storica. Sarebbe come giudicare lo stato di salute di un paziente solo in base a una brutta ma temporanea influenza. Molto più importante è capire dall'esame del sangue se ci sono malanni cronici più gravi e connessioni tra i sintomi. Sono i fenomeni meteorologici estremi visti in un contesto globale a indicare che il clima manifesta anomalie più frequenti, alcune delle quali inedite anche a scala plurimillenaria. Più che le nevicate sugli USA, inquieta la straordinaria mitezza che da anni caratterizza l'Oceano Artico, sul quale manca ora all'appello oltre 1,5 milioni di chilometri quadrati di banchisa. Lassù non vi sono grandi città, né redazioni di giornali, perciò se ne parla poco. Però le analisi dei sedimenti marini indicano come, almeno da 2000 anni, le acque del Nord Atlantico non sono mai state così tiepide. Vi sono ipotesi che proprio la scarsità del ghiaccio artico possa aver cambiato la circolazione atmosferica dominante, apportando inverni freddi su America ed Europa. Nell'emisfero sud, la formidabile sequenza di piogge torrenziali è legata al ciclico episodio della Niña, anomalo raffreddamento delle acque del Pacifico che fronteggiano Cile, Perù ed Ecuador, e i legami con l'aumento termico dell'atmosfera sono meno evidenti. Sul fatto che la temperatura globale aumenti, non ci sono invece dubbi. Il 2010 è stato l'anno più caldo della storia recente e la quantità di CO2 nell'aria è la più elevata da 1,000,000 anni. Quando il paziente ha la febbre e gli esami del sangue sballati, il corpo funziona male e i sintomi possono essere contraddittori. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I sintomi della terra malata di Luca Mercalli, dalla Stampa, del 3 febbraio.